Lunga. Cronache meridiane di Gianluca Nicoletti. Come fare a fare bella figura in spiaggia? Mostrando un buon libro, un libro altolocato, un libro blasonato, un libro che vi faccia fare bella figura tra tutti che ostentano il loro smartphone. Quindi, per aiutarvi questa mattina, vi suggeriamo quali potrebbero essere i 100 libri migliori, quelli con cui potreste fare la miglior figura. E ve lo dirà Piero Donfles, che ci ha fatto un elenco dei 100 libri che rendono la vita più ricca. A voi non la renderanno più ricca, ma la renderanno più movimentata per tutta la durata delle vostre vacanze. È nostra la colpa di tutto ciò? No, compagno, la colpa è solo del padrone, dell'unica creatura in tutta la fattoria che consumi senza produrre. Padrone è chi deruba un animale del proprio calore, chi beve il latte che non munge, chi addenta le mele che non raccoglie, chi mangia il grano che miete. Quanti hanno riconosciuto La fattoria degli animali di George Orwell in questo inizio? Quanti lo considerano uno dei libri che ha formato il loro senso critico, ha dato senso alla loro vita, ha in qualche maniera arricchito la loro maniera di vedere il mondo? E quanti sono i libri che voi considerate che siano stati realmente per voi formativi? Quanti saranno più o meno? Non voglio sapere quanti sono i libri che avete letto, ma quanti sono i libri che vi hanno veramente formato? Che ogni tanto ricordate, cioè, vedi, proprio perché ho letto quel libro io mi comporto così. Ce ne saranno sicuramente. Beh, vorrei saperlo questa mattina. È anche importante la latitudine da cui voi ci chiamate all'800240024 per dare questa vostra testimonianza. Amazon, che è la più grossa piattaforma di diffusione di vendita online di libri, ha dato... fornito alcuni dati statistici sull'Italia che sono stati subito criticati, commentati da tutti i soloni che si occupano di letteratura, dicendo non è possibile, Amazon sono dati segreti, non si sa, non corrisponde al reale coefficiente di passione per la lettura in Italia. Sì, ha elencato le 10 città italiane in cui si vendono più libri su Amazon. Ora, io sono convinto che se le 10 città italiane in cui si vendono più libri, ammesso che sia vero, ma diamo per scontato, non ha nessun motivo per mentire su questo dato, saranno probabilmente le città in cui c'è maggior passione per la lettura. E quindi ha un senso questa mattina che chiamiamo un ospite a parlare di questo argomento. Perché? Perché la prima città è Milano e la seconda città è Trieste. Poi segue Trento, Padova, Firenze, Bergamo, Bologna, Cagliari. Roma è penultima, ma non ho motivo di dubitarlo che Roma è la città dei vernissage, delle presentazioni, delle magnate, dei tramezzini, del parliamone sulla terrazza, caro, bello, stupendo il tuo libro, ma nessuno legge una mazza, è chiaro, se no non saremmo a Roma. A Roma si prega, a Roma ci si parla, a Roma si fanno tante cose, ma a Roma non si leggono libri. Dicevo, è importante che però la prima città sia Milano e la seconda sia Trieste, perché a parlare di questo argomento questa mattina ho un triestino che vive a Milano. Piero Donfles, buongiorno. Buongiorno a te. Ecco, tu sei perfettamente in target con quella che è la classifica di questa mattina di Amazon, quindi giustamente Piero Donfles ha scritto i 100 libri che rendono più ricca la nostra vita, editore Garzanti. Piero Donfles lo conoscete perché è un protagonista da anni della trasmissione Per un pugno di libro, oltre ad essere un raffinato intellettuale, ma questo chi ascolta la radio non so quanto possa averlo percepito. Piero, innanzitutto ti senti che questa classifica di Amazon possa avere un fondamento nell'empiricità dei dati? Non sappiamo come, dove, quando siano i numeri che hanno raccolto, però ci può essere un senso in questa classifica delle città che ho elencato? Ah, purtroppo il senso è abbastanza evidente. Il nord, nord-est è la zona del paese dove si legge di più, dove le scuole danno i risultati migliori e dove c'è maggiore influenza del mondo intellettuale e culturale, sia per la presenza di case editrici che di giornali e di biblioteche aperte anche in orari poco meridiani. Questo significa che c'è un'attenzione in genere, non soltanto delle istituzioni, io penso soprattutto dei cittadini, ai momenti in cui si distribuisce il libro e con il libro la conoscenza. Ecco, ma ci può essere una corrispondenza fra i libri venduti online e i libri poi realmente letti? Secondo me sì, perché alla fine se ci sono dei lettori, alla fine sceglieranno anche la maniera più semplice per loro a volte, o anche più economica, perché in fondo si risparmia di acquistare dei libri. dal punto di vista tecnico, comprare attraverso Amazon significa far arrivare libri anche lì dove abitualmente non arrivano, e questa è una cosa abbastanza importante. Vuol dire che, siccome purtroppo ci sono molti posti dove non ci sono librerie, riuscire a farsi arrivare libri anche molto recenti o anche invece magari lontani nel tempo, che Amazon ci recapita a casa in poco tempo, significa superare una serie di problemi. In più ci sono sconti che le librerie non fanno. Su questo libro che tu hai fatto, 100 libri, anzi sono 101 perché ce n'hai poi ci hai aggiunto un racconto, poi ci dirai quale sia e perché l'hai aggiunto. I 100 libri che in realtà ognuno dovrebbe aver letto per dire di avere una sua completezza perlomeno di ciò che è stato scritto nei classici. Tu hai fatto però delle tue categorie, delle tue classificazioni che passano trasversalmente a quella che è la storia della letteratura. Mi ha colpito soprattutto la prima, quella che hai messo per prima, non so se casualmente. Sono i libri legati in qualche maniera alle utopie non realizzate, le utopie negate. Secondo te sei partito casualmente da questo tipo di libri, che poi sono i libri che parlano come I viaggi di Gulliver, Il maestro e Margherita, sono i libri che parlano di qualcosa che in realtà dovrebbe essere poi non è, rimane il nostro mondo del sogno. Secondo te è una classifica data da una priorità di interesse, di centralità, o semplicemente ti piaceva far così? Ma le due cose, come spesso succede, vanno d'accordo. Mi è accaduto di mettere lì perché sono i libri che mi sono venuti in mente per primo, ma poi ripensandoci secondo me c'è un senso. Il senso è questo: i libri non sono soltanto intrattenimento, sono qualcosa che alle volte, al di là del nostro desiderio, ci lascia dentro qualcosa, le riflessioni, capacità di analisi e anche stimoli a pensare a quello che è la nostra vita, il nostro futuro, eccetera. Che se c'è una cosa sulla quale veramente l'uomo è sempre indietro rispetto a quello che sono le sue aspettative, e la realizzazione dei suoi progetti per il futuro. Noi pensiamo molto, ma realizziamo tra poco e male, e la letteratura alle volte è quella che riesce a metterci in guardia più di tanti altri saggi rispetto a quello che sono le nostre capacità di realizzazione. Le utopie, guai vivere senza utopie, dobbiamo avere dei grandi progetti, ma poi dove vanno a finire? Spesso il legno storto dell'umanità trasforma dei grandi progetti in qualcosa di orribile, mostruoso, alle volte addirittura sanguinario. Ecco, mi sembra che la letteratura abbia spesso messo in luce questa nostra tendenza e ci ha messo in guardia contro la nostra tentazione di andare al di là delle nostre capacità. Ecco perché la dimensione dell'utopia, quella sognata ma anche quella realizzata, perché è ovvio che la fattoria degli animali si riferisce all'utopia sovietica, alle volte è una cosa su cui è bene riflettere anche nella dimensione della fantasia letteraria. Ho il vago sospetto che non sia un sogno. Vorrei tanto sapere dove sono finito. Il luogo in cui Gulliver era approdato dopo il naufragio era un regno molto strano e misterioso, chiamato Lilliput. Possiamo immaginarci la grande sorpresa di Gulliver nel ritrovarsi in una terra così singolare. Adesso, Piero, mi spieghi coram populo la dedica che mi hai fatto al tuo libro. Perché hai dovuto sottolineare pagina 12 in cui c'è Gulliver che fa la pipì per spegnere l'incendio sulla città dei Lillipuziani? Quale metafora cela? Ma devo dire, in realtà non c'è nessuna metafora. Ah, perché sono un maiale, dice, allora metto questa dedica. No, perché secondo me quando noi leggiamo Lilliput in Gulliver ci rendiamo conto del fatto che essere imprigionati e poi essere una specie di benefattore come questo grande gigante che è stato a questi ometti minuscoli sia una meravigliosa metafora della relatività dell'uomo. Ma quello che è impressionante è che a un certo punto Gulliver si trova nei guai. Perché? Perché scoppia un incendio nel palazzo reale, anzi esattamente negli appartamenti della regina. L'incendio tra l'altro è dovuto al fatto che le dame di compagnia stanno leggendo dei libri, che sembra indicare che anche lì qualche pericolo ci sia, e di fronte al rischio che tutto il palazzo reale vada a fuoco, Lilliput fa pipì sul palazzo reale e spegne l'incendio. Cosa accade poco dopo? Che in un modo o nell'altro lui entra in disgrazia e sarà cacciato da Lilliput. Perché? Beh, tanto cominciare perché ha inondato il palazzo reale della sua pipì, e capisco benissimo che per i lillipuziani questo non fosse entusiasmante. Ma quello che mi ha sempre suggerito, fin da quando ero piccolo, l'immagine, l'illustrazione che c'è, la cosa è che si vede Gulliver di spalle che fa pipì e intorno tutte queste signore che fuggono dal palazzo reale. Ma le signore avranno alzato lo sguardo, avranno visto qualcosa, e ancora una volta qui è una questione di relatività. Cosa hanno visto? Hanno visto un signore che faceva pipì, per loro un signore immenso. Dallo sproporzionato oggetto virile, questo era il caso. Sentiamo Marcello, buongiorno Marcello. Buongiorno Nicoletti, buongiorno. La sua classifica. Allora, guardi, io al primo posto dico subito, io non ho letto i 100 libri che necessari per dirmi un acculturato. Beh, nella vita avrà letto 100 libri. No. Beh, certo, ma non avrà letto i 100 che indica Piero Dofles, che sono 100 pietre miliari della letteratura classica, però l'avrà letto i 100 comunque. Sì, sì. La montagna incantata di Thomas Mann, per me è stato, diciamo, un libro che mi ha aiutato moltissimo ad elaborare, diciamo, dei passaggi per me, diciamo, altrimenti difficili, insomma, da capire, ecco, di questa nostra moderna società. A lei, per lei è stato utile. Sentiamolo a Riccardo, che poi mi rivolgo a Piero, si hanno imbroccato nei 100 libri. Questo mi sembra di sì. Riccardo. Buongiorno, Nicoletti. Due libri antitetici per lei. Uno per il lavoro. Hanno detto che io sono un insegnante dovrebbe leggere Lolita per capire cosa sta facendo, io non capivo. O cosa non dovrebbe fare, soprattutto. Io pensavo fosse un libro a sfondo erotico, altro, invece mi ha insegnato altro e mi è piaciuto quello che mi ha insegnato. Perché una persona sana non si attizza con le ragazzine per questo? No, è proprio perché mi attizzo che adesso ho capito che non sono malato. Ah. Comunque, quello professionale. Non so se l'abbia letto bene, perché non è che... L'ho letto molto bene. Non è che si faccia una di quelle fini che tutti esatto, della vita... Visto che sono tutti morti, io me ne sto al mio posto. Allora è catartico, no? Va bene. Questo è uno. E l'altro? Molto Close to Me cantavano i Police. Ecco. E poi l'altro, Se questo è un uomo, è molto forte per chi vuole fare... sport, per esempio, cioè quando io andavo in bicicletta, freddo, fame, eccetera, ma cosa vuoi aver freddo e fame? Pensa cosa è passato quell'essere umano lì, pedala, vai avanti. Quindi, diciamo, l'immagine della vita nel lager la serviva a ridimensionare quelle che erano le banali fatiche quotidiane, e Lolita le dà un giusto senso di distanza rispetto alle sue pulsioni. Piero Dofles, una tua prima impressione del pubblico a caldo? Il fatto che qualcuno legga La montagna incantata e la consideri un punto di riferimento importante vuol dire che c'è qualcuno che ha una forte predisposizione all'analisi filosofica, perché quello è un romanzo eminentemente filosofico, dal quale ovviamente si possono dare molti insegnamenti, ma bisogna avere anche, diciamo, una certa pazienza, una certa capacità di andare avanti. È un romanzone, diciamo la verità, non facile. E poi dentro c'è questo scontro tra la filosofia umanistico illuminista, il nichilismo del gesuita Nafta, che da soli sono una rappresentazione mirabile di quelle che sono le due condizioni principali della che non è Papa Francesco. No, peraltro, di tutt'altra stoffa. Curiosa questa contrapposizione tra Lolita e Se questo è un uomo. Se ci sono romanzi diversi di stampi, sono questi due, tutto concentrato su se stesso, sulla sua passione personale, Lolita, e invece Se questo è un uomo è un romanzo di grandissima tensione morale, oltre che di testimonianza, perché non è solo la questione di che cosa è successo nei campi di sterminio, ma chi è l'uomo che c'è dentro e che cosa rappresenta l'umanità di fronte all'orrore. Credo che quella sia la riflessione più bella che fa Primo Levi, quando dice che in fondo, quando uno si trova in quelle condizioni, magari si mette a parlare di Dante e di Ulisse per ricordare che l'uomo è un uomo anche in quelle condizioni. Però entrambi messi insieme, nella lettura e nell'accezione che ne ha fatta l'ascoltatore, darebbero l'idea della necessità di un rigore. Ha bisogno di punti di riferimento rigorosi, e se li ha trovati in questi due libri, uno che in maniera lo contiene, l'altro che gli dà senso comunque al sacrificio, alla rinuncia. Melog, cronache meridiane. In un piccolo cortile lastricato sul retro della casa fu trovato il cadavere della vecchia signora, con la gola tagliata tanto selvaggiamente che quando i gendarmi tentarono di sollevare la salma, la testa si staccò nettamente dal busto. Sia il corpo che la testa erano orribilmente mutilati. Il primo specialmente era così sfigurato da non serbare quasi più traccia di parvenza umana. A quanto ci risulta, non è ancora stato scoperto il minimo indizio che possa gettar luce su questo orrendo mistero. L'indomani i giornali riportavano nuovi particolari sul delitto. La tragedia della Rue Morgue. Molte persone sono state interrogate in relazione a questo incredibile e mostruoso delitto, ma nulla è trapelato che potesse servire a svelarne il mistero. Quanti, dopo aver letto Poe, considerano relativo guardare Fox Crime o Channel, quanto in realtà c'è tutto già in questo fantastico autore dell'assurdo e anche del macabro in qualche maniera? Questa mattina stiamo cercando di confrontarmi con gli ascoltatori e vedo che rispondono vivacissimi, o a quest'ora incappiamo in un pubblico di grandi lettori o in realtà noi sottovalutiamo l'italiano lettore medio. Siamo con Piero Dorfles, autore dei 100 libri che rendono più ricca la nostra vita, uscito da poco per Garzanti. Piero Dorfles ha classificato in alcune sue personali categorie i 100 libri, anzi 101 libri, che secondo lui vanno letti comunque. Chi non li legge non ha perfettamente chiaro quale possa essere il messaggio che ci passa la letteratura classica per vivere meglio, vivere diversamente, avere strumenti di lettura e di approfondimento della nostra vita. Vorrei mandare due ascoltatori, così poi Piero ha modo di analizzare attraverso la reazione del pubblico quelle che sono le sue impressioni e contrapporle con le sue scelte. Bruno, buongiorno. Buongiorno, buongiorno Nicoletti. Beh, io immediatamente alla sua domanda ho risposto mentalmente a Remark, niente di nuovo sul fronte occidentale, è sicuramente uno dei libri che mi ha formato. Curiosamente da ragazzino, quando nessuno si interessava alla mia età, alla prima guerra mondiale, per capirci. Non è che adesso la gente si strappi le vesti. Sì, c'è stato una ricorrenza, ma è roba vecchia. Bisogna aver avuto i nonni come della mia generazione. Lo so, ma finché abbiamo avuto i nonni che ci raccontavano le trincee, le granate, i gas, e nell'emotività oggi si racconta attraverso i film. Non c'è nessuno che si ricorda neppure della seconda guerra mondiale, nonostante solo una settimana fa il panegirico televisivo mediatico ha fatto in modo che qualcosa si sentisse e si vedesse. Ovviamente quello che volevo dire io però non era solo questo, se mi permette un attimo Nicoletti. Quello che volevo dire io è che le letture sono stratificazioni temporanee, nel senso che in almeno 50 anni di letture, perché ho cominciato prestissimo a leggere, quindi ho letto migliaia di libri, non cento, ci sono dei momenti in cui si leggono certe cose, ci si appassiona. Per esempio, io ho avuto il ciclo chandleriano, ho letto tutti i libri di Chandler. Poi ho avuto il ciclo di Sciascia, e io ho letto tutti i libri di Sciascia, per capirsi. Adesso che fase del ciclo è? In questo momento sono al digitale. Lei prima parlava del digitale. Sì, vabbè, però il digitale è un mezzo. Oggi sono al digitale. E cosa sono, c'è certamente, esattamente. Sono al digitale. In questo momento sono ai libri di evasione, i romanzi, Hunger Games, per capirci. Va bene, evidentemente. Banale, no? No, finito il ciclo del liberismo, ho letto i libri sul liberismo, Alan Smith, ho letto i libri sul liberismo. Adesso non faccia sfoggio di paraculaggio letterario. Abbiamo capito, lei legge molti libri, ci fa piacere. Samuele. Salve, buongiorno, sono Samuele, chiamo da Trani, provincia di Bari. Bravo Samuele. Penso di essere uno dei pochi meridionali oggi al telefono. No, non è vero adesso. Comunque, in ogni caso. Sì, anzi, è vero. Mi accodo al discorso che stava facendo Bruno, che mi ha preceduto. Dica il suo libro, La svelta. Allora, il mio libro, diciamo, di formazione, tra tutti, il Candido di Voltaire, che ho riletto, penso, decine e decine di volte. E a cosa le è servito, però? Ecco, il punto è questo qua, a seconda dell'età in cui l'ho letto la prima volta, che avevo 16 anni, adesso ne ho 35, lo rileggo praticamente, non dico quasi ogni anno, ma quasi, sì, quasi ogni anno. Sì, ma questo accanimento perché del Candide, qual è il rovello che deve sciogliere? Perché lo leggi continuamente? Ogni volta mi trasmette un messaggio diverso, dall'idea semplice e basilare della mentalità illuministica, sì, all'analisi dell'uomo. Sì, ma come l'applica l'idea della mentalità illuministica la mattina quando sta al semaforo dentro la sua automobile o fa il pendolare in treno? Questo era capito. Questo era relativo a quando ero un adolescente, lo leggevo. Ma adesso 30 anni. Va bene, riparliamo quando c'ha 60 anni. Io non sarò vivo, ne parlerà con qualcuno. Angela. Sì, buongiorno Nicoletti, sì. Buongiorno a tutti. Veloce, solo il titolo. E perché? Siddhartha. Di Hermanès, perché? Perché mi ha fatto vedere che la vita può cambiare. Nella mia vita sono cambiata tante volte e mi chiedevo perché, perché è naturale. E qual è il cambiamento più radicale dovuto alla lettura illuminante di Hermanès? Sì, il cambiamento più radicale è quello di riprendere in mano la mia vita. Vabbè, è banalità, non vuol dire niente, la vita non si riprende in mano, non è un oggetto. Che vuol dire? Rinascere, la rinascita. Rinascere, prima bisogna morire. Io sono qua dove vedo una persona rinascere. Sono morta. Io vabbè, sono morta, lei va per metafore, quindi probabilmente lei sta cercando un tentativo maldestro di creare letteratura su se stessa. Piero Dorfles. Ma questo di Siddhartha è un classico, è un libro del quale... Sì, lo citano tutti, infatti, lo citano tutti, e non l'ha letto nessuno. Apparentemente è una cosa che illumina, in realtà se uno va a vedere sono appunto una visione fasulla di un Totalmente, mondo che non è mai esistito. Lo tengono tutte le brave signorine anni 80 sul comodino, la signora continua a citarlo. Esatto, a me ricorda Carmina Burana, cioè è una di quelle operazioni kitsch in cui si cerca di raccontare quello che non si conosce facendo delle finte cose antiche. Che è una finta. Ma infatti l'ho segata questa ascoltatrice, noti che l'ho trattata malissimo. Sì, anche troppo, poverina. Ma comunque, io sono dell'idea che è stato uno di quei libri fasulli che tutti conoscono e non si può non conoscere, alla fine del quale ti passa davanti un fiume, è sempre uguale, ma è sempre diverso. Quante volte l'hai riletti questi 100 libri, Piero? Ma tutti almeno due, qualcuno molto di più, dipende, siccome poi io nella vita lavoro con i libri, spesso mi capita di rileggere per mestiere. E lì devo dire quel signore che rileggeva infinitamente Candido, mi lascia un po' stupito perché Candido è una fiabetta che non è che possa dire più che tanto, ma ha ragione che ogni volta che noi rileggiamo un libro siamo noi diversi, il libro è sempre uguale e noi ogni volta utilizziamo il libro per capire come ci siamo cambiati. Grazie Piero Dolfes, 100 libri che rendono più ricca la vostra vita.